Perché quando leggi in treno o hai semplicemente in mano un libro, vuol dire che nessuno ti deve dare fastidio. Poi quando ci stai te, allora lo abbasso e dico vabbè, scambiamo due chiacchiere. No, c'è sempre il rompiscatole che attacca. Scendi sempre prima, scendi, scappi. So, questo me l'hanno detto spesso. Allora prima. Vedi, tanto so, cioè 11 minuti proprio, 11 minuti di chiacchierate e poi finisce là. Dai, tanto lo so giù. Che adesso vorrei sapere cosa sto leggendo. No, stavolta non mi interessa. Non guarda. Ti interessa? No, non lo voglio sapere. Io te lo dico lo stesso. No, allora cosa vuoi non sapere? Sbattere niente. Il libro si rovina. No, si rovina, ma i libri sono belli vissuti. Ma tu hai cominciato a leggere da quando sai che ogni tanto ti incrocio io e ti faccio raccontare il libro? Leggevo anche prima, però come ti dicevo il libro ti difende dalla realtà esterna. Tu leggi e uno non ti disturba se leggi, no? Ma anche russare difende. Io ogni tanto mi addormento e mi accorgo che sto russando. Mi sveglio e faccio finta che sto tossendo. Faccio però vedo già tutti intorno e mi guardano male. Io già so la chitarra e fa casino, perciò ho scelto il libro per non chiacchierare con nessuno. A parte che su questi treni nessuno chiacchiera mai con nessuno. Se non fosse per te, sono poche le persone che parlano. Cenerentola con la chitarra, figurati. Dai. Eh? Cenerentola con la chitarra, nessuno la vuole. Cenerentola con la chitarra, sì. Ma non l'ho persa, sta qua. Comunque sto leggendo un libro e ti stavo pensando. A proposito di cosa? Perché mi è rimasto 11 minuti. Il mondo gira intorno a qualcosa che dura 11 minuti, lo sai? No, non lo sapevo, cos'è? Vuoi che te lo dico io? Dimmelo. Lo sai che fanno per questi 11 minuti? Sì. Si sposano, mantengono una famiglia, sopportano il pianto dei bambini, si sprofondano in spiegazioni quando tornano a rincasare, guardano decine, centinaia di altre donne con le quali avrebbero voluto passeggiare sulle rive del lago. Ma sì, ma che vuol dire? No, che vuol dire questa stronzata? Scusa. Ti sei perso per strada, ti ho detto, il mondo gira intorno a questi 11 minuti. Ma quali? 11 minuti e poi non ce ne sono più altri. E c'è qualcosa di sbagliato nella civiltà, perché non è la deforestazione dell'Amazzonia, nel buco dell'olozono, nell'estinzione dei panda, no. C'è qualcosa di sbagliato e sono questi 11 minuti. Non ci ho capito nulla, giuro, sono limitato. Cosa vuol secondo dire? Te cosa sono 11 minuti? Fammi capire, in questo libro parla di 11 minuti. Cosa si fa in 11 minuti, secondo te? Il le attività si possono fare in 11 minuti? Si può fare un... Però quella che fa girare il mondo, non tutte le attività. Se per 11 minuti tu ti siedi e fissi il vuoto, il mondo non gira per quegli 11 minuti. Non lo so, cos'è il tempo di rivoluzione terrestre? Cosa sono 11 minuti? Se togliamo il tempo per spogliarci, per qualche fugace gesto di falsa tenerezza, alcune frasi ovvie, rivestirsi, tutto si riduce a 11 minuti. Cioè il tempo di una scopata secondo lui sono 11 minuti. E dove l'ha letto? Chi l'ha scritto questo? Sto leggendo questo libro e libro dice è? Che sono 11 minuti. Ah, 11 minuti, Paolo. Vabbè. Sì. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. È il suo tempo. Lui dedica 10 minuti e 50 secondi nello spogliarsi e fare i preliminari e quel secondo che avanza. Dici che 10 sono secondi. Troppi 11 minuti. Vabbè, 11 minuti. Va bene, 11 minuti per fare l'amore, poi che altro di fondamentale? Allora, Quindi, che succede? Una folata di vento ti ha colto, si è aperto il finestrino. Si è aperto il finestrino. Che non sapevo mai. Allora? Che sono tutti sigillati. E allora cosa? Non ti leggo più niente. No, spiegami. Allora questo autore, che tu ancora devi dirmi chi sia, capito? Vabbè, eccolo qua. Ah, sì, va bene. E Maria cominciò a classificare i clienti secondo tre diverse tipologie. Maria chi è? Maria è la protagonista. E cosa fa nella vita? La prostituta. Ok. I Terminator, quelli che entrano già con l'odore dell'alcol addosso fingendo di non guardare nessuno, convinti che tutti stessero osservando loro, che dopo un ballo parlano direttamente di albergo. I Pretty Woman, che cercano di essere raffinati, gentili, affettuosi, quasi che salverò, il mondo. Io ti salverò, sono quelli lì. Erano i tipici, quelli dolci all'inizio e talmente insicuri che quando arrivano in albergo finiscono per essere più esigenti. E poi ci sono i padrini. I padrini sono quelli che trattano il corpo di una donna come fosse una merce. Vabbè. Però sono quelli più autentici. Vabbè, faccio la puttana, cos'altro? Ballano, chiacchierano. Non ho capito niente di questo libro, non sono all'altezza. Non sei all'altezza? No, non sono all'altezza. Beh, non capisco volta, da quale allora... tu sia interessata. Sono interessata perché stavo pensando. Perché la domanda di questo libro è: quanto può essere distruttiva una cosa che però ti può far star bene per 11 minuti? Perché 11, no 10, no 9? Vabbè, facciamo quelli che 12. Vuoi: 8, 7, 5, no, oltre 5, più basso di 5, no. Ma magari. Il tempo in cui noi stiamo bene è sempre un tempo limitato, è molto frammentato lo star bene. Tu sei giovane, ma se metti in fila i momenti in cui sei stata bene e quelli in cui sei stata male, sono pochissimi. Ma grazie a Dio, perché il bene diffuso e a buon mercato non è un bene, diventa monotonia e noia. Il bene proprio perché è raro. Noi chiamiamo bene ciò che è raro. Se fosse rara la sfiga, noi diremmo: ah, che bello, potessi avere un po' di sfiga. È così. Noi invece viviamo nella sfiga, abbiamo dei momenti di botta di culo. Ci sono, ecco, dei momenti di euforia, di sì, è così. Dei picchi e poi si ricade. Guarda, le categorie che ti fanno capire meglio sono la categoria della sfiga e la categoria della botta di culo. Che okay. È volgare, ma capisce. La botta di culo è il momento dell'irruzione, qualcosa che non ti aspetti, che ti gratifica, che non ti sentivi di meritare, perché sei meritato, grazie. Si chiama giusta ricompensa, capito? Okay. E la sfiga è quella in cui ti senti immerso. Allora, la sfiga è tanta, e quindi tu ti lamenti, e quindi sei dentro la sfiga, e quindi hai una sorta di immersione. Praticamente tu navighi nella sfiga, ogni tanto ci sono delle isole di... Che si chiamano botte di culo. Di botte di... Allora, botta di culo è bello, sfiga è brutta. Se fosse il contrario, se la nostra vita fosse una continua botta di culo, sorprendente, andremo a cercare con il lumicino dei rari momenti di sfiga che in qualche maniera illuminino questo stuccoso splendore della botta di culo. Per renderci conto che viviamo nella botta di culo. Sì, ma diventerebbe... sarebbe, sono... Le categorie funzionano così: se a un certo punto si invertissero le polarità, il sud diventasse nord, destra diventasse sinistra, il nero diventasse bianco, tutto ciò che noi consideriamo nero, oscurità, sinistro, bianco, diventerebbe bello, positivo, luminoso. Invece dire io sono solare, direbbe io sono oscuro, e tutti che bello, una personalità così oscura, quanto la vorrei, certo. Con tutte queste persone così schifosamente solari che abbiamo intorno. Che ridono sempre. E vedi così, appunto, vedi, ti ho spiegato, la banalizzazione degli 11 minuti. È una visione limitata. Limitata, sì. Come lo imposteresti allora? Ma già ho detto tutto. Ma hai detto tutto, ho capito, però nel caso specifico. Io non sono inventato. Se dovessi cambiare il titolo del libro. Ma io quel libro cambieresti butterei tutto via. Il libro. Ma sì, non cambierei il libro. Io, c'è qualcosa che ormai fa parte del passato, i libri. È il feticismo per il libro. Perché non fai un book crossing, lo lasci lì appoggiato? Ma io te l'avevo detto, che te li posso, te li lascio a te. Ma io non so, io viaggio quasi senza bagaglio. E lo porti nel prossimo treno, tanto no, scendi, non ho bisogno, sali, di... scendi, guarda, sali. Le mie ossessioni fanno già abbastanza compagnia, perché mi devo aggiungere quelle melenze degli altri. Dicevo però, l'esposizione che ti ho fatto io dal mio punto di vista è estemporanea, vissuta su un treno che corre sui binari, salendo e scendendo da vagoni. Mm-hmm. Questo signore per fare questo librone avrà avuto centinaia di consulenti, avrà avuto... Non è vero, è una storia. Detto, io sono uno scrittore, oggi parto, vado in un bel posto e scrivo, arriva nel posto, tutti diranno arriva no, lo scrittore. No, è vita vissuta. Lo scrittore è vita vissuta. Deve scrivere, non disturbatelo, si mette lì tranquillo, mangia, beve, dorme, e ci mette 11 si alza minuti. La mattina, guarda il paesaggio, fa una passeggiata, poi si mette davanti a una sua macchina per scrivere, perché normalmente o se no la sua penna. E allora il libro non bisogna... E scrive allora una frase, sarebbe... 11 minuti, e tutti dicono... 11 minuti, cosa che vuol genio, dire 11 minuti? Pensa cosa vorrà dire, e così va avanti. Ok, allora come dovrebbe essere scritto un libro? Allora non dovresti so. Vivere scrivendo? Ma magari sarebbe facile. Visto che scrivere non vivi e dovresti vivere scrivendo. Sì, bastasse quello, devo vivere scrivendo, scrivere parlando, vivere inventando, vivere dicendo cazzate, vivere andando in treno, già devo fare un sacco. Ma vivere scrivendo mi piacerebbe, ma vivo anche scrivendo, gran parte della mia vita è sostenuta dal mio scrivere, quindi vivo scrivendo, chi vive scrivendo più di me, ma vivo anche parlando, che non basta vivere scrivere, vivo anche cazzeggiando, vivo anche illudendo, vivo anche perdendo tempo sul treno con te, come questa mattina. Ciao, scendo, vale. Mazza. Suonami qualcosa, ciao. Dai. No, non ti suono niente. Dai, almeno quello, sei brava a suonare la chitarra. I just need a reason, worship, I change me to be like you. I just need a reason, worship, I follow you just like a fool. I just need a reason, shit, I let you control my mind. What will you get from me? Il treno va. Cosa mi manca in treno? Mi manca la televisione. Devo dire che molte persone hanno dei piccoli televisori, o perlomeno quello che è il derivato della televisione, hanno dei portatili dove in mano hanno la possibilità di vedere dei film, di vedere dei cartoni o semplicemente di guardare videoclip su YouTube. Devo dire, più è antico il computer, più è di generazione vecchia, più è un umarel con in mano un computerino da pochi euro comperato forse 7, 8, 10 anni fa, che ancora gira con dei sistemi operativi superati, passati, e più è importante vedere vedere all'interno il filmino che guarda, sempre dei film taroccati, dei film scaricati, dei film di prima visione presi che si vedono malissimo con un audio del tutto impercettibile, eppure sono contenti, eppure si pavoneggiano. Io ricordo che molto guardai la televisione, molto osservai la televisione e arrivai a una conclusione che non eravamo noi a guardare la televisione, ma la televisione a guardare noi. E questa intuizione a cosa mi venne? Mi venne dal racconto di una mia zia che rese immortale chiamandola la signora Lucia. La signorina Lucia aveva pudore di spogliarsi davanti al televisore acceso. Fanciulla dei primi anni 50, era relegata per contingenze familiari a dormire sull'ottomana del salotto. Ogni notte trovava disagio nell'offrire le proprie inverecondie all'occhio vigile della TV che presidiava il suo coricarsi. La madre aveva provveduto sin dall'entrata dell'apparecchio in famiglia a confezionare un vestitino in ciniglia marrò. Il primo sipario serviva nell'intenzione comune a dissimularla nell'arredamento e a nascondere nel salotto buono un oggetto tanto frivolo e disarmonico. Ma ancor di più serviva a mantenere ininterrotto il filo della discendenza tra il teatro tradizionale e quello domestico rappresentato dal televisore. A Lucia tale preoccupazione non pareva sufficiente usbergo alla sua verecondia e anche se il siparietto accecava l'occhio di vetro, lei non si fidava e andava a denudarsi in un angolo del salottino buono in cui immaginava che il possibile campo visivo dell'ordigno scrutatore non l'avrebbe colta. Pensava così di salvarsi l'anima. Ella intuiva che quella macchina inquietante che tutti guardavano con grande diletto in realtà guardasse chi era seduto di fronte a lei. «La televisione ci guarda! La televisione ci guarda!» ripetiva incessantemente ogni sera alla famigliola beata nella catalessi catodica. Nessuno naturalmente le dava ascolto, ma anzi le ingiungevano imperiosi «guarda e non fare storie!» Lei però non voleva essere guardata e si rincantucciava in un angolino buio del salotto aspettando che lo spettacolo finisse per poter andare a dormire sull'ottomana dove stavano seduti genitori e fratelli. Di tutta la questione fu anche informato il parroco, che fece alla fanciulla un bel sermone sulla modestia e sulle pompe sataniche, ma in fondo anche lui un po' la capiva e anzi le dava quasi ragione, consigliandola di perseverare comunque nella sua pudicizia, perché la modestia non è mai troppa. Certo, non poteva dirle che per sottrarsi alla lascivia del televisore ella si offriva alla finestra del salotto che affacciava nell'orto della canonica, guarda il caso, e ogni sera lui le guardava il culo, affocato dal demone carnale. Adesso mi rallento, mi tranquillizzo, perché l'argomento merita un attimo di attenzione. Quando ho visto arrivare questa audioletta ho detto: questa sembra scritta da me stesso, e tutti diranno: questa te la sei scritta da solo, perché sembra quasi che rappresenti la tua filosofia. No, non è così, me l'ha scritta veramente una donna che veramente ha, secondo me, una visione quasi profetica di quella che oggi è, dovrebbe essere, nella migliore delle ipotesi sarà la soluzione, l'esito, la derivazione rispetto alla sacra, indissolubile, incrollabile coppia. Caro Gianluca, sono una donna di 41 anni con un figlio di 21. Il padre di mio figlio non si è mai interessato a lui, ma ha una famiglia meravigliosa e non abbiamo mai sentito la sua mancanza, né affettivamente né economicamente. Mio figlio è il classico bravo ragazzo, abbiamo un rapporto franco e aperto, non mi ha mai dato grosse preoccupazioni e adesso, in questo momento di crisi, si è pure trovato un lavoro che lo soddisfa. Allora perché ti scrivo? Per il mio fidanzato. Un uomo perfetto di cui mi sento profondamente innamorata, che mi ama e me lo dimostra. Tutte le altre donne me lo invidiano perché comunica ed è capace di esprimere i suoi sentimenti e addirittura riesce ad ascoltarmi e capire ciò che gli dico. Abbiamo molti interessi in comune e ridiamo spesso quando siamo vicini. Ha uno splendido rapporto con mio figlio e gli vuole realmente bene. Ma io non voglio sposarlo e non voglio neanche vivere con lui, nonostante stiamo insieme da 12 anni. Non riesco a rinunciare ai miei spazi, ai miei tempi, alle mie abitudini. Non gradisco che mi veda la mattina con gli occhi cisposi e l'alito che puzza, o la sera stanca con la tuta di pile e la mia super comoda vestaglia viola. Non voglio rinunciare a poter cenare a mezzanotte con latte e biscotti, o saltare il pranzo perché mi dà noia cucinare. Non voglio che sappia quali stupidissime serie TV guardo quando mi annoio, o che leggo gli Harmony nelle domeniche piovose. Non mi piacerebbe fargli subire troppo i miei cattivi umori o le mie irritazioni, o anche io subire i suoi. Non ho interesse a scoprire se divide i bianchi dai colorati per fare la lavatrice o innervosirmi perché lascia gli sportelli aperti in cucina. È una donna realizzata, perfettamente realizzata. Una donna che ha autonomia. Una donna che ha un figlio, quindi ha comunque un figlio da allevare, quindi in fondo ha dato ragione a quello che viene chiamato l'orologio biologico. Ha già figliato, ha partorito, ha generato, ha un figlio, l'ha allevato, anzi è già grande. Anzi, questo figlio già va avanti da solo per la vita, quindi ha staccato il cordone con la madre. Ella è ancora giovane, ella può coltivare amori, può coltivare passioni, può coltivare soprattutto autonomia e non rinuncia alla sua autonomia. Un paio di mesi fa mio figlio è partito per una vacanza e allora lui è stato a casa mia per una settimana. A suo dire, un periodo perfetto. Io non vedevo l'ora che finisse. Non mi fraintendere, è andato tutto bene. Non abbiamo mai avuto né uno screzio né un litigio. Ci siamo divertiti a cucinare insieme. Mi è piaciuto ascoltarlo mentre suonava per me. Abbiamo fatto un sacco l'amore. Ma quando è finita la settimana e ho avuto il mio letto tutto per me, mi sono sentita colpevolmente contenta. Io, scherzando ma non troppo, gli dico che lo sposerò solo quando sarò malata o incapace di prendermi cura di me, perché mi fido solo di lui per prendere le decisioni sulla fine della mia vita. Lui invece, scherzando molto meno, mi ha chiesto qualche volta di sposarlo, romanticamente e con il viso stravolto dai sentimenti. Io non capisco l'istituto del matrimonio o della convivenza. Non è più amorevole e interessante vedere la persona di cui sei innamorata quando hai voglia di vederlo e quando ha voglia di vederti? Non prendiamoci in giro. Generalmente le donne si sposano per avere bambini e gli uomini per avere la badante. Io il bambino ce l'ho e non sono interessata a farne altri e lui è perfettamente in grado di badare a se stesso grazie a una madre che l'ha costretto a farlo. Quindi, perché rischiare di rovinare questa unione? Pensi che prima o poi dovrò capitolare per non perderlo? E qui viene il bello. Lei probabilmente, cara amica, si trova già in una posizione privilegiata. Si trova avanti rispetto a tutte le possibili forme di lucida emancipazione attraverso cui sono passate le donne contemporanee. Hanno l'autonomia, hanno una possibilità fantastica di conservazione della propria bellezza, di cura del proprio corpo, della propria mente, della propria interiorità, del proprio desiderio di autoaffermazione. Hanno anche una discreta a volte autonomia economica, quindi non devono dipendere da un uomo, non cercano più l'uomo che le mantenga perché si mantengono da sole. Hanno sì voglia di vivere storie d'amore, hanno bisogno di uomini che si occupino di loro, vogliono che accanto a loro ci sia comunque una presenza maschile. Questo è lecito, questo è complementare, questo è interessante, divertente, questo è anche piacevole, a volte dà anche discrete soddisfazioni fisiche. Ma queste donne non possono più tollerare il fatto di avere sempre la condanna di un uomo vicino. E gli uomini no, gli uomini ancora, per quanto facciano i libertini, per quanto giochino a fare i puttanieri, per quanto si dicano animi liberi pronti a una diffusa polimorfia amorosa, in realtà alla fine pensano sempre all'infermiera, a colei che gli mette il catetere, a colei che si occupa di loro, a colei con cui confidarsi dei loro acciacchi. Quindi non interpreti per una pulsione amorosa, per un desiderio di vivere una storia profonda, la voglia che ha il suo uomo di stare con lei. Lo mandi via, ha ragione. È brutto farsi vedere la mattina con l'alito pesante. È lecito e divertente potersi stravaccare sul divano e fare tutte le sconcezze in autonomia che si possono fare, mangiare con le mani davanti al televisore, leggere ciò che si vuole leggere, guardare quello che si vuole guardare, pensare a quello che si vuole pensare o non fare assolutamente nulla. Questo non è più possibile in una vita di coppia. Una vita di coppia continua, costante, una persona sempre accanto, che se ti vuole bene, ti ama probabilmente i primi tempi, ma solo i primi tempi, non ti giudicherà, poi lentamente, prima nel suo sguardo, poi nelle sue reticenze e al fine nei suoi atti espliciti, si vedrà una continua, costante, quotidiana azione di giudizio su quello che fai, e questo non è più tollerabile per nessuno, nemmeno per chi ama molto e chi vuole molto essere amato.